Estúdio-se. Turista, turista! Cari amici, buona volta un programma mio che vi riempie di gioia come lo sento un giudizio. Pure voi si può in giro a rompere i coglioni alla gente. Come sempre c'è sempre che raiumente di Maria Francesca per la Madonna. Zio Pi, veramente io signo tuo senso e non da Juventus. E poi, che c'è si mani in gioco? Poi fidanzato mio, sai chi ten? Te ne ho una ranza e pure, perché ti me la fate la visione all'altro mondo. Esagerato! Esagerata, esagerata. Ma tu sai che zio per tutte le certe infrastrutture che tu manco tu immagini per la malanza. Comunque cari amici ci troviamo a rubare e vediamo se pure di gente c'è ancora turista turista. Ma ricordiamo i nostri sponsor, voglio sentire, ricordo. Allora, gli sponsor sono un panino ascellato di Maruzzo Ipilus, l'unico panino che ti viene riscaldato con l'ascelle. Un ristorante di carni alternative Miao Bao di Ottavio Isukamo e la concessionaria macchina fricata i Mikuzu Lupen. Buono, buono, buono, brava, brava, brava, così brava Maria Francesca. Fermiamoci la signora, signora, signora, vieni a casa, signora, che menà, signora bellissima, ma mi potete avverto, signora. E che giovane? Caccia in giovane, un'altra volta mi trasferite di parte vostra, signora. Non ci posso fare un bello giretto, guarda qua, il signore. Vida Kiss! Giova! Giova! Che è successo? E tu che cazzo sei? Compagno me! Compagno me! Ma che ne sei tu? Il signor Giovanni Ali, campione dei pesi massimi pugilato, 34 vittorie di fila per KO. Abbiamo un grande sportivo qua! Erri signore! Ah, vida Kiss, volete fare un giro in tua proprietà tua, chissà! No! Ah sì, vieni qua che ti faccio io in un giro. Io la madonza. Picchialo. La madonza. Mamma mia. Proprio ne si muore con i bot per la madonza. Ma che ci sono i bar? Che ci sono i ragazzi i bar? Che puoi dire? Mi vuole che sgava ma la coppia fra le rifaga. E guarda. Ma che sei figlia, ma? Papà! Zio Pia, vedi come sono bravo a fare la maniglia per mamma e per la figlia. Ah, vedi come sono bravo. Oh, voglio chiamare l'altro spurgo che mi ricoglie questa storia. Mi scrivi cosa?